get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte, ben sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, quella che state per ascoltare è la nostra 144esima trasmissione. Oggi a farvi compagnia saremo io, cioè Caterina, e Lucilla. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Oggi la scaletta prevede due tipi di interventi. Il primo è dedicato alla recensione di un libro, anche perché era da un po' di tempo che non ne facevamo più, nel quale si sgranano e si susseguono storie e eventi come protagoniste delle donne. È un libro molto, molto particolare e Lucilla ve ne parlerà meglio più avanti. Nel secondo invece faremo una carrellata sugli articoli apparsi in questi giorni sui giornali che parlano del mondo gay e lesbico. Adesso ascoltiamo un brano musicale, che se riesco a mettere in pausa un attimo il CD ve lo faccio pure sentire. Pensavo di mandare in onda L'ultimo bacio di Carmen Consoli. Sottofondo gradevolissima la voce di Carmen Consoli per ricordarvi il numero del telefonino al quale potete mandare i vostri graditissimi messaggi, è 338-4146-682, lo ripeto 338-4146-682. Ci siamo? Non mi sento in cuffia, eh? Ah, ok, allora ci siamo. Buonasera a tutte, sono Lucilla, con piacere risuono con voi. E, bene, allora, come vi ha anticipato Caterina, una breve recensione di questo libro di Anna Maria Mori, dal titolo Lasciami stare. Allora, non è propriamente una lettura, diciamo, estiva, però ve lo consigliamo comunque, perché secondo noi va bene per tutte le stagioni. Allora, Anna Maria Mori è una giornalista e una scrittrice e da qualche anno si dedica prevalentemente all'attività di scrittrice. Lasciami stare è una raccolta di brevi racconti scritti in prima persona, tante storie di ieri e di oggi, che formano quasi un unico racconto, voci di donne, della loro forza, della loro debolezza, delle illusioni, della rabbia, dell'oppressione, delle contraddizioni, eccetera, ma con una sensazione di totale consapevolezza che percorre tutto il libro. Grida che ognuna di noi sente risuonare dentro. Nel 2003 questa raccolta è stata presentata dalla stessa autrice presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, alla libreria Zora. Allora, con piacere e rabbia vi leggiamo due racconti. Il primo, che si intitola Paola e che dà il titolo alla raccolta, appunto, Lasciami stare. It's so natural, you make me feel like I'm a lady. Natural. My very soul, pull me closer so I won't feel the cold. Ciao Luisa, baci anche a te. Allora, lasciami stare. E Paola, che si mangia oggi? Che mangiamo questa mattina, a mezzogiorno, questa sera, domani, dopodomani, domenica, a Natale, a Capodanno, il giorno dei santi e quello dei morti? È una vita, tutta la vita, che sono chiamata a rispondere a questa domanda. Cosa mangiamo oggi? Una vita che al posto della preghiera della sera devo ricordarmi di aprire il freezer e tirar fuori il pesce, le fettine o l'arrosto, perché siano scongelati la mattina dopo e pronti per essere cucinati qualche volta me lo dimentico. Ho già chiuso il libro che finalmente a letto la sera riesco a leggere, sto per assopirmi e salto giù dal letto di corsa. Oddio, mi sono dimenticata di scongelare la carne! È una vita che al posto della preghiera del mattino devo farmi i conti da sola o con qualcuno, qualcuna, che viene ad aiutarmi. Dunque, oggi a pranzo siamo 3, 4, 5, 6, vediamo un po'. Per primo c'è il minestrone, per secondo facciamo quei petti di pollo che ho scongelato 2 giorni fa e se restano un altro po' in frigorifero vanno a male. Di contorno? Cosa prepariamo di contorno? È una vita, tutti i giorni della mia vita, che la mattina, subito dopo il caffè, invece di pensare come vorrei ai fatti miei, quello che veramente mi piacerebbe fare della mia giornata e della mia vita, devo aprire il frigorifero, la dispensa, l'armadio, delle provviste sul balcone e rispondere al mio privato confessore interno, ogni tanto anche esterno. E invece del quante volte, figlia mia, della giovinezza mia e di tante, il confessore di tutta la vita successiva mi chiede ogni giorno, incessantemente, senza pietà e remissione, cosa manca oggi? Cosa bisogna comprare per la tavola del pranzo, della cena e della colazione? E io con punta, doverosamente pentita delle dimenticanze del giorno prima. Ogni giorno dopo sono lì, pronta a rispondere. Manca lo zucchero, la pasta corta, quella lunga, il riso, i pomodori, la frutta. È finita la verdura, serve lo yogurt magro per mio figlio che è a dieta. Devo ricordarmi di comprare il pane per mio genero che senza non riesce a mangiare. Il latte è andato a male e bisogna riprenderlo. Non ci sono più i biscotti. Sto male, sono infelice, ma non me ne posso occupare, non è il momento. Prima viene il minestrone. Con che lo faccio? Con cosa lo facciamo se manca la cipolla? È finita, bisogna scendere a comprare la cipolla per il minestrone. Io mi metto da parte, non ho tempo, non devo avere tempo per la mia infelicità che nel frattempo cresce. Faccio la mia doverosa riverenza al minestrone, scendo a comprare la cipolla che gli ci vuole e visto che ci sono, prendo anche un chilo di carote per metterle nella pappa del cane che si gratta perché ha la dermatosi. Vorrei decidere cosa fare della mia vita. Mi cerco un nuovo lavoro, un nuovo amore, una nuova casa, una nuova città. Resto e continuo o me ne vado e ricomincio? Per intanto prendo il carrello e scendo, mezzo chilo di caffè macinato per la moca, 2 litri di latte scremato e per domani, che mangiamo domani? Quasi quasi vado dal macellaio e prendo la carne per 3 giorni di seguito, pollo, spezzatino, un arrosto e magari anche mezzo chilo di fettine, non si sa mai. Mi riempio il carrello, lo trascino e pesa su per le scale, sempre con la speranza di saltare un giorno, almeno uno. C'è tutto? Non manca niente? Posso non pensare a cosa si mangerà oggi e forse anche domani? Hey, I'm ashamed. Didn't mean to call you. Arrivo, scarico tutto nel frigorifero che per fortuna ho voluto grandissimo, un monumento. E subito qualcuno mi aggredisce. Perché tutta questa roba? E se poi va male? Perché fai queste spese enormi invece di comprare giorno per giorno? Ci vuoi avvelenare con il cibo andato a male? No, non voglio avvelenare nessuno. Vorrei solo non pensare, non comprare, non decidere ogni giorno, ogni momento. Cosa si mangia? Cosa mangiamo oggi? E per questa sera? Se abbiamo avuto la pasta a pranzo, la sera ci occorrerà qualcosa di diverso. Cosa mangiamo stasera? Vorrei non essere costretta a sapere e rispondere se il verduraio all'angolo ha la cicoria migliore di quello del negozio 2 strade più in là, se il macellaio ha la carne più buona di quello del supermercato. Non me ne importa niente della pasta fresca del negozio in piazza. Vorrei non sapere e non dover rispondere sul prezzo del prosciutto, del parmigiano e delle mele royal. Ma non posso dirlo. E se lo dico non mi ascoltano. Nessuno ci fa caso. Io devo pensare alla cicoria, alla carne, alla pasta fresca e alle mele. Sarebbe impensabile che io non debba interrompere la lettura di un romanzo che mi piace tanto o semplicemente il corso dei miei pensieri ogni volta che qualcuno lancia il grido d'allarme. È finito il caffè! Non c'è più il pane! Come facciamo senza il pane? Guardo le altre donne come me sul marciapiede sotto casa, con l'appendice del carrello scozzese a quadrettoni sul blu, perché non si veda lo sporco. Saranno felici, più felici di me, con il loro carico quotidiano di carne, pane, latte e verdura? Chissà, magari a qualcuna di loro rispondere ogni giorno preparate al «Cosa si mangia oggi?» procura un brivido di piacere, persino di potere. Io spero per lei, per loro. Le vedo. Quando discutono sul prezzo e sulla qualità del prosciutto, ce ne sono di quelle che sono contente, si danno un ruolo, un'identità, dell'importanza, soprattutto se dietro al banco c'è un uomo. Finalmente, per il tramite del prosciutto o del formaggio, possono metterlo in difficoltà, in discussione. Possono persino impartirgli degli ordini. Io no. Io mi annoio soltanto. Non me ne importa niente della possibilità di sentirmi potente nei confronti di un uomo per mezzo di un etto di prosciutto o di parmigiano. Il parmigiano, il prosciutto e anche il pesce, la verdura, la carne, il caffè mi annoiano soltanto. È da una vita che mi annoio pensando a loro. Da una vita vorrei saltare al collo e stringerglielo forte quando qualcuno allegramente mi chiede: e oggi? Cosa si mangia di buono oggi? Vorrei saltare al collo e stringere forte, più forte che posso, ogni volta che ci mettiamo a tavola il commensale di turno, prima era mio padre, oggi di solito è mio marito, si ferma con la forchetta in aria, a sapore assorto, come se fosse intento a ripassare tra sé e sé la critica della ragion pura di Kant, e dichiara: questo sugo non è buono come quello dell'altro giorno. Cosa ci hai messo dentro? L'unico che perdono e che ho perdonato, che anzi mi ha fatto tenerezza, è mio figlio, che da poco era andato a vivere da solo e un giorno mi ha chiamato sul cellulare. Io ero dall'altra parte del mondo e mi ha chiesto: come le faccio le patate al forno? Cosa ci devo mettere oltre il sale? Cosa si mangia oggi di buono? Che facciamo domenica? Che a tavola ci siamo tutti e c'è anche l'operaio che viene a riparare il muro? Vorrei rispondere come sento, come penso. E chi se ne frega, mangia, mangiate quello che trovate, quello che volete. Non vedi? Non vedete che sto leggendo, pensando, meditando, che sto raccogliendo le idee perennemente confuse, che mi sto lavando i capelli, truccando? Che vorrei parlare di qualcosa di diverso dal salame, dalla frutta o dal sugo di oggi, che è venuto meno bene di quello dell'altro giorno? In questo momento non hai tempo, non hai voglia di dirmi nient'altro? E allora lasciami stare. È solo questo che chiedo. Lasciatemi stare. Beh, delizioso questo primo brano che ha letto Lucilla, e io direi adesso di ascoltarci un pochettino di Lisa Stanfield con il brano So Natural. Beh, il brano che devo leggere io forse è un pochettino diverso, infatti lo ha scritto Matilde e si intitola Cattiva. Sono cattiva, non sorrido, non piango e soprattutto non piagnucolo. Non voglio essere e apparire debole, fragile e neppure simpatica. Non mi interessa mettere gli altri a loro agio, mostrare tolleranza, per carità, dolcezza, gentilezza, arrendevolezza, modestia. Tutto l'armamentario tradizionale del femminile non mi appartiene e non voglio che mi appartenga. Mi ripugna. Mi ripugnano i buoni, i buonisti, con tutto il colorario della melassa dei buoni sentimenti. Io sono aggressiva, ambiziosa, voglio emergere. Non voglio solo essere accettata, voglio vincere. E vinco, perché io sono brava e gli altri me lo devono riconoscere. Eventualmente da sudditi, non da padroni che mi sorridono e ai quali sorrido per conquistare la loro simpatia. Io sono brava e per affermarlo non chiedo permesso, scusi, mi dispiace, a nessuno. Sono brava. E ci credereste? Funziona. Le donne con le quali solidarizzo, per carità non fosse altro che per ragioni di schieramento politico, non mi piacciono in quanto donne. Del genere al quale appartengono, non condivido le moine, le ipocrisie, la falsa accondiscendenza, il primato che le donne continuano a dare nella loro vita al privato, all'amore, agli amori, alla maternità. Non mi piace la continua recita, perché io so che è una recita, della modestia, fidarti, fidati, fidatevi, sono come tu mi vuoi, non mi piace. I'm piace il gioco della seduzione. Io non dico vorrei, ma voglio. Non chiedo permessi, mi prendo i miei diritti. Se punto a una cosa, non la prendo alla larga, la chiedo direttamente, a brutto muso, ed in genere la ottengo. Io non sono né ipocrita né modesta. Io so che sono intelligente e capace. Mi presento così, sicura di quello che sono. Prendere o lasciare. Non aspetto che il giudizio su di me venga da altri. Sono io a stabilire che valgo. Anche nel vestire, non cerco di piacere. Gli abiti che scelgo raccontano la mia aggressività, la modernità, la capacità di confrontarmi con gli uomini e non con i loro pantaloni alla pari. E gli uomini si confrontano con me, alla pari. Potrò magari restare antipatica, però sono rispettata. Forse faccio anche un po' paura, non mi dispiace, neanche quello. Del resto, io che mi conosco e quindi conosco le donne, l'universo di donne, le madri, le nonne, le sorelle, le zie, le compagne di scuola, le amiche, le colleghe, che sono fuori da me, ma anche dentro di me, so che in fondo non sono diversa e tantomeno peggiore di loro. Sono cattiva, almeno quanto loro, ambiziosa, vogliosa di vincere come loro. La differenza, l'unica, è che io non ho paura di dimostrarlo. Le altre cercano di conquistare le stesse cose che io voglio per me, sorridendo, invitando il mondo a fidarsi, a non avere paura di loro. Io non ho voglia né tempo per le moine. Io voglio tutto e subito. Se necessario, ma anche quando non è necessario, ringhio e mordo per ottenerlo. Provare per credere è molto eccitante. Allora, intanto ascoltate Donna di Mia Martini, che ci sembrava in tema e che è una voce splendida. E poi quello, l'altra cosa è che Lasciami Stare di Anna Maria Mori è edito da Sperling e Kufer nel 2003 ed è più o meno imperdibile secondo noi. Buon ascolto. Fuori, donna, come un mazzo di fiori, quando è solo ti fanno fuori, donna. Allora, noi vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una Calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. A tal proposito salutiamo le donne di Caserta, di Bari, di Milano, di Catania, che anche stasera ci ha deliziato di un suo messaggino, Bologna, Brescia, che nel corso delle precedenti trasmissioni ci hanno mandato un loro contributo. Potete contattarci qui alla radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo telefono è anche fax e segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR, che sta per Coordinamento Lesbiche Romane, presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra mail contatti@clrbp.it e il nostro sito web www.clrbp.it. Il numero per gli SMS è 338 41 46682, dove potete inviarci messaggi, darci consigli e quant'altro. Anche per oggi ne aspettiamo molti e, come diciamo sempre, io ne aspetto un po', Caterina ne aspetta di più. No, non volevo dire questo. Se le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci una mail all'indirizzo di posta elettronica che vi ripetiamo subito nel caso non aveste fatto in tempo a trascriverlo. Contatti, perché ci dovete contattare, contatti@clrbp.it. Ripetiamo anche il telefono della radio, che è 06 49 17 50 e il nostro cellulare sul quale inviare messaggi, che se non l'avete imparato ora non imparerete più, 338 41 46 682. Allora, proseguiamo con la nostra trasmissione. Adesso vi faremo una breve rassegna stampa leggendovi una serie di articoli che abbiamo preso da alcuni giornali. Allora, cominciamo. Sono notiziole, sì, sì, gradevoli. Sì, da carina da ascoltare. Allora, la prima notizia che vi vogliamo dare è il rapporto sui pregiudizi che è apparso sul Mattino di Napoli il 28 maggio scorso, dove praticamente Bologna risulta essere la città più tollerante e 9 omosessuali su 10 afferma: qui per noi, cioè a Bologna, la vita è più facile. Quindi Bologna, capitale gay d'Italia, stando infatti ai risultati dell'indagine Goletta Gay 2004. Il capoluogo emiliano si conferma ancora una volta al primo posto. Infatti l'indagine è effettuata ogni 2 anni e quindi sta ancora al primo posto per essere la città più tollerante, aperta, amichevole verso gli italiani di orientamento omosessuale. In questo articolo a me viene da pensare una cosa molto, molto carina, perché l'autrice di questo articolo, Daniela Limoncelli, ha tenuto a specificare che Bologna è comunque una città tollerante, aperta e amichevole verso gli italiani che hanno un orientamento omosessuale. Chissà perché, forse per chi non è italiano e pure omosessuale, forse qualche guaio ce l'ha anche a Bologna, chissà. Comunque, per l'89% degli intervistati una coppia gay ha vita più facile che altrove. Seguono a ruota Pisa, Milano, Roma e Firenze e salgono nella top 10 Parma, Padova e Catania. Quindi la nostra amica catanese, la giovane Lella, come si definisce lei, sarà contenta. Quindi buona fortuna. Esatto. Mentre scendono in qualità della vita per i gay, Brescia, Rimini e Ravenna. Agli ultimi posti troviamo Foggia, Rovigo, Belluno e ben due province campane, Avellino e Benevento. Goletta Gay, spiega Alessio De Giorgi, presidente di Gay.it, responsabile dell'indagine, nasce con l'intento di premiare quelle città anche nel sud in cui è più semplice essere omosessuali e per denunciare le troppe città in cui i gay sono ancora invisibili, discriminati, oggetto di derisioni e di violenze. Più di 4 intervistati su 10 dichiarano nell'indagine di aver subito o saputo di violenze a danni dei gay. Ben il 72% denuncia che le battute anti-gay sono all'ordine del giorno. With my heart I give you everything, everything you ever need. E continuiamo sempre l'articolo di Daniela Limoncelli sul Mattino di Napoli e dice: meno aperto ad abbattere i pregiudizi è il sud rispetto al nord. Nella classifica delle regioni più vivibili per gay e lesbiche si trovano ai primi posti Lazio, Emilia e Lombardia. La Campania, prima regione meridionale a comparire in classifica, è solo all'11° posto. E, vergogna! Rilancia un calo di tolleranza a Napoli, che è passata dalla 21esima posizione alla 32esima. A Napoli però c'è un dato positivo, infatti il 65% degli intervistati ha dichiarato che almeno un componente della propria famiglia è a conoscenza della sua omosessualità, contro la media nazionale che è di circa il 35%. E comunque dobbiamo dire che a Napoli c'è una grandissima tradizione invece di tolleranza e di rispetto. Non soltanto per gli omosessuali, bisogna dirlo. Esatto. Chiaramente questa classifica fatta da Goletta Gay ha suscitato delle reazioni e infatti c'è un altro articolo di Gianni Cianciulli che dice: gay e lesbiche di Avellino e Benevento naufragano sulla Goletta Verde, sulla Goletta Gay 2004. La classifica li relega agli ultimi posti in Campania, quindi si fanno compagnia anche con quelli di Foggia, Belluno e Rovigo. Pochissime le associazioni e i circoli culturali e politici, luoghi di incontro ridotti all'osso, fattori determinanti per un flusso migratorio continuo di gay e lesbiche verso altri lidi. In queste nostre zone del sud, afferma Vincenzo Capuano, segretario del Circolo Arcigay di Napoli, purtroppo esiste ancora una mentalità chiusa. Più i centri sono piccoli, come Avellino e Benevento, più si avverte lo smarrimento di gay e lesbiche. Per questi motivi molti si trasferiscono in altre città più grandi e meno selettive. Un altrove dove la propria sessualità trova più rispetto, dove migliori sono le forme di vivibilità e di socialità. Ma non è soltanto a Benevento e Avellino che si sta male. Sentite cosa vi dice ora Lucilla. Allora, abbiamo un altro pezzo, sempre perle dalla stampa, e qui è invece è sul Venerdì di Repubblica. Quello uscito il 4 di giugno del 2004, scusate. Siamo stanche anche noi. Allora, altro che matrimoni riconosciuti per gli omosessuali, spesso c'è la galera, e qui il tono è molto fosco. Dove essere gay diventa reato, e abbiamo un piccolo elenco. Allora, l'ultimo segnale positivo è arrivato dal Canada, che lo scorso 29 aprile, recita l'articolo, ha approvato una legge che protegge gli omosessuali da qualsiasi discriminazione, un po' diciamo una specie protetta. Ma nel mondo sono più di 70 gli stati dove gay e lesbiche possono essere puniti anche con la pena di morte. Per lo più si tratta di paesi mediorientali o africani. Tra quelli dove la legge è più dura, Iran, Afghanistan, Arabia Saudita, Yemen, Sudan, Pakistan, Singapore. Sempre ad aprile, un duro colpo veniva invece dalle Nazioni Unite, dove il Brasile, sotto pressione dei paesi più conservatori, si vedeva costretto a rimettere nel cassetto la discussa risoluzione con cui invitava a parificare agli altri diritti umani. E ancora, lo scontro più violento è negli USA, che del resto sappiamo, no, che sono molto democratici, esatto, sono democratici e hanno un ruolo guida nel mondo, in tutto, si riconoscono, insomma. Allora, dicevamo, lo scontro più violento è negli USA, ve lo ricordiamo, dove le dispute giudiziarie spuntano come funghi, dall'Oregon alla California, dal New Mexico al New Jersey. Lo scorso 17 maggio, nello stato del Massachusetts, venivano celebrate le prime unioni omosessuali e intanto il presidente George W. Bush tornava a tuonare contro «Bisogna vietarle!». In Europa, nella vecchia, grande, straordinaria Europa, come siamo messi? Sono 11 paesi che, con condizioni diverse, riconoscono le unioni omosessuali. Oh, ricordatevi che a noi del CLR non ce ne può fregare di meno delle assolutamente unioni. Però vi riportiamo delle notizie, esatto, che circolano. Danimarca, Svezia, Norvegia, Olanda, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Portogallo e le regioni spagnole di Catalogna, Valencia, Aragona e Navarra. Nel mondo, oltre al citato Canada, soltanto Australia e Nuova Zelanda si sono dotate di leggi che puniscono ogni atto discriminatorio nei confronti degli omosessuali. Ora, ricordate, noi in altre trasmissioni abbiamo detto che il nuovo modo, noi pensiamo che essere lesbiche sia rivoluzionario, lo vogliamo ribadire. Già di per sé. Di per sé, e quindi sia destabilizzante. La questione di riconoscere l'omofobia come la nuova malattia risposta nuovamente l'asse del problema non alla riorganizzazione mondiale, alla caduta dei ruoli, eccetera, ma a una questione medica. Certo. E come sempre noi ci contraddistinguiamo anche per delle scelte che ci differenziano un po' da quello che è in generale il movimento gay italiano, anche perché, per esempio, questa è un'altra notizia che vi vogliamo dare, l'Arcigay ha dato delle indicazioni di voto con delle motivazioni precise che adesso noi vi leggiamo e poi io personalmente dirò anche perché non farò proprio tutto quello che dicono. Allora, dunque, Arcigay, impegni concreti per meritare i nostri voti. Non basta dichiararsi, bisogna anche prendersi degli impegni concreti. Aurelio Mancuso, segretario nazionale di Arcigay, invita Alessandro Cecchi Paone, il candidato di Forza Italia alle europee che ha dichiarato la sua bisessualità, a sottoscrivere la piattaforma politica del movimento. Anche perché Forza Italia, dice sempre Mancuso, si è sempre schierato contro ogni atto o risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dei gay, lesbiche e trans. Il segretario di Arcigay è poi invitato a non votare i candidati di alcuni partiti che io qui non elencherò perché non sono assolutamente la portavoce dell'Arcigay. In più dà delle indicazioni rispetto invece ad alcuni partiti secondo loro da votare che si sono dimostrati più attenti ai problemi del movimento omosessuale. Poi dà i nomi di alcuni candidati che sono gay, che mi sembra un'ottima ragione già di per sé perché vengano votati, ma poi la cosa che a me ha fatto veramente drizzare i peli è che oltre a questi candidati gay elenca una serie di politici tra i quali Emma Bonino. Allora, io ripeto, non sono la portavoce dell'Arcigay, per cui non ho ripetuto le indicazioni di voto date dal responsabile di Arcigay. so una cosa, che io sicuramente sono lesbica, sicuramente sono femminista. Non potrei mai, cioè non riuscirei mai a dare il voto a chi ha giustificato la guerra in Iraq. Cioè, Emma Bonino sì, è vero che è una donna, ma oltre ad essere lesbica e femminista, sono anche una pacifista convinta. E al di là dell'attenzione che può aver dimostrato nei confronti di tutti gli omosessuali, non cozza proprio con la mia mentalità, ecco. E non solo questo, cioè Emma Bonino, da quello che si dice, da quello che dice la stampa e dal tam tam che le fanno, che è enorme, dice che stia facendo una grande, sia una testa di ponte, che si potrebbe anche definire diversamente, ma insomma lasciamo stare. Sempre testa, una testa di ponte tra l'Occidente e il mondo islamico. E risiede al Cairo, appunto, al Cairo, in una grande metropoli. Perché non se ne va nell'interno? Perché non se ne va nei villaggi a vivere dell'Africa subsahariana per vedere veramente di fare delle lotte per le donne che là vivono una condizione di estremo disagio? E quindi mi sembra alla stregua dei digiuni pannelliani. Non esatto, mi interessa più o meno, esatto. Comunque, viste queste indicazioni date, che noi per diritto di cronaca abbiamo comunque riportato come notizia, a questo punto mi sembra molto più interessante una proposta che forse è una provocazione, no? Che adesso vi leggerà Lucilla. Allora, noi lo diciamo da una vita e mezzo, anche due. Quindi ci fa piacere che finalmente alcune parlamentari abbiano avuto la pensata o abbiano raccolto le voci delle donne del popolo. Allora, invito stampa, siamo solo il 10%? Dateci l'8 per 1000. E vai, abbiamo detto noi, finalmente! E quindi è stata presentata la proposta di legge per la costituzione dell'albo delle associazioni femminili e femministe, per il famoso 8 per 1000 della denuncia dei redditi, che siamo costretti a dare allo Stato o alle chiese di qualsiasi confessione se siano, sempre chiese sono. Sempre chiese sono. E vi leggiamo: in Italia le donne che siedono in Parlamento sono appena il 10% del totale degli eletti, tra le percentuali più basse del mondo. La proposta più volte reiterata di quota rosa per raggiungere una rappresentanza più equilibrata appare del tutto inidonea rispetto al valore della presenza femminile nella società. In Italia ci sono realtà femminili che producono cultura, organizzano dibattiti, incontri, convegni, contribuendo alla crescita di una coscienza collettiva di genere. Un impegno tenace e fondamentale, come solo le donne sanno garantire, spesso frutto di un'attività assolutamente volontaristica, gratuita, senza fondi né altra forma di finanziamento economico. E qui voi lo sapete bene, noi facciamo le feste. Esatto, venite, pure se le lasagne sono so buone, venite. Un impegno difficilmente conciliabile con quelli che tradizionalmente pesano sulle spalle delle donne, come il lavoro, la famiglia e l'educazione dei figli. Dare l'8 per 1000 alle associazioni e alle organizzazioni femminili è dunque un punto di partenza fondamentale per dare valore. Scusate, all'assunzione di responsabilità pubblica delle donne. Dare l'8 per 1000 alle associazioni di donne significa dotarle di una possibilità in più per non essere subordinate dai meccanismi tutti maschili dei partiti e delle grandi associazioni che ne schiacciano l'autonomia di pensiero e di agire politico. Una proposta di legge che struttura questa esigenza è stata già presentata in Parlamento, prima firmataria l'onorevole Elettra Deiana, è sottoscritta da numerose parlamentari. Il ruolo delle associazioni e organizzazioni di donne è ora quello di far pressione sulle forze politiche affinché questo progetto diventi legge e possa essere ossigeno alle tante associazioni e organizzazioni femminili che sono una ricchezza assoluta in questo paese. Prima importante occasione di confronto sarà la conferenza stampa di presentazione del progetto di legge il prossimo 12 maggio alle ore 12 presso la sala stampa di Montecitorio, alla quale parteciperanno... Eh? 12 maggio è già passato, Lucilla. È già passato, però già. Insomma, per noi è importante dirlo, cioè quindi certo, c'è stato. Certo. Ecco, presso la sala stampa, scusate, c'è stato, di Montecitorio, alla quale hanno partecipato le deputate Deiana, Zanella, Pisa come città, Cima, Titti De Simone, Trupia, Valpiana, Pistone, Zanotti e numerose associazioni e gruppi di donne. Siamo ben felici. Certo, che ci sia stato, ma soprattutto che qualcuna abbia avuto la nostra stessa idea. Io ricordo che forse un anno e mezzo fa o due anni fa facevamo una trasmissione nella quale dicevamo una cosa molto importante, perché oltre ad essere donne, quindi abbiamo una percentuale bassissima di rappresentanza in questo nella schiera politica italiana, quindi ben venga l'8 per 1000, però noi siamo anche lesbiche, per cui per esempio io ho sempre detto che lo Stato con noi ci guadagna due volte, perché si prende i nostri contributi e poi non abbiamo la possibilità di devolvere la nostra pensione a chi vorremmo, no? E quindi ci guadagna due volte, perché si tiene i soldi prima e dopo e durante, insomma. Esatto, ecco. Si tiene sempre. E poi l'idea dell'8 per 1000 a me ha sempre entusiasmato, perché mi piacerebbe, che ne so, fare una sottoscrizione un anno a Radio Onda Rossa, oppure un anno alla Casa Internazionale delle Donne, un anno al CLR, me la do da me al CLR per fare tante iniziative, e quindi ben venga, insomma, ecco. Allora, c'è appena arrivato un messaggio di una Capricorno molto triste. Figlia mia, se fai queste scelte continuerai ad essere sempre più triste, figlia mia. Che ti devo dire? Non lo so. Che cosa si fa per una lesbica che si innamora di una etera? Non lo so, prova a dirglielo, non lo so. Prova a dirglielo se ti va, o se no cambia aria. Cerca un'altra zona, magari frequentata da lesbiche, no? Invece riceviamo da Giulia, e volentieri comunichiamo, non un sms, ma ci ha scritto Giulia a contatti, @clrbp.it. Il 19 giugno alle ore 16, Emanuela Trane, in arte Dolce Nera, vincitrice della sezione giovani del Festival di Sanremo, incontrerà i ragazzi del carcere minorile di Roma per un concerto gratuito. E quindi bello. Ci sembra un'ottima iniziativa. Mi sembra buona. Il 25 giugno vuoi dire qualcosa? No, il 25 giugno lascio a te l'onore. Senti, ma cioè, sei libera tu il 25 giugno? Non lo so, possiamo invitare la Capricorno Triste? Ma vieni, Capricorno Triste, vieni con da noi. Il 25 giugno alle ore 20:30, dalle ore 20:30 in poi, presso la Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B. Grande iniziativa, continua la collaborazione tra Coordinamento Lesbiche Romane, Rete di Donne contro ogni forma di mutilazione genitale femminile e Nodi, Nostri Diritti. Per quell'occasione vi invitiamo quindi all'iniziativa che si chiamerà Assaggiamoci! E voilà, l'intercultura finalmente vola dalle parole ai fornelli, in cucina. In cucina vi offriamo tante le cornie, dai paesi africani ai paesi sudamericani ai paesi italiani. Campani, vabbè, lei c'è la fidanzata campana, che volete fare? Vuole la roba campana. E ci porterà la solita frittata di maccheroni, che credete che ci fa? La frittata di maccheroni. Vabbè. E comunque, da tutti i posti, da tutti i pizzi, se vi vengono idee scriveteci. Ci saranno poi proiezioni di diapositive, di immagini e insieme passeremo una bella giornata, una bella serata per la precisione. Sì, e visto che hai detto di... Solo per donne, eh? Cioè, beh, certo, certo, anche perché sta all'interno della parte separatista, per cui non potrebbe essere diversamente. Siccome Lucilla ci ha detto di iscriverci, io ricordo ancora la nostra email, che è contatti@clrbp, e il nostro sito web, che è www.clrbp.it. Potete chiamarci o inviarci un fax il mercoledì a partire dalle ore 21 allo 06 6864 201, oppure potete scriverci, per chi ama ancora i mezzi non tecnologici, quindi carta e penna, a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Allora, adesso noi metteremo una canzone, sì, per chiudere, abbiamo parlato tanto, esatto, eh, per chiudere questa nostra trasmissione, che indovina come si intitola? No, dimmelo tu, non lo so. La differenza. La differenza di che, scusa? La differenza, non essere ma così fiscale. Vabbè, la differenza. La canta Tosca, e sulle note di questa canzone il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento con la replica di questa trasmissione alla settimana prossima. Allora, a martedì prossimo. E un ciao grande da Lucilla e da Caterina, e un grande ringraziamento a Claudia, che aveva cercato di inviarci una recensione su un film, ma che purtroppo non è riuscita, non c'è arrivata. E la utilizzeremo virus, più qualcosa, avanti, vabbè. Ma la riutilizzeremo. Okay. Ciao Claudia. Ciao ciao. Dolcezza che vi muove, piano le carezze piove. Piove lacrime e veleno, dimmi amore dove andremo, e le giura seno a seno, sotto un cielo agli altri osceno. Occhi dietro una finestra, ma che storia di sonno. E scusate la brevissima nuova interruzione, ci è arrivato un altro sms che dice: ciao carissime, secondo noi ci sarà anche la tolleranza, ma confermo che siamo agli ultimi posti in Europa, quindi dov'è la tolleranza? Grazie per il tuo contributo e a martedì prossimo. Ciao. Che le scalderai, maledetta l'apparenza, dov'è la differenza? Per me non è indecente.